Gallicare Italia ile Açık Radyo'daydı. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla Mirko İlkane 2018'de San Remo'ya katılıyor ve kendi kategorisinde Mia Martini Eleştirmenler Ödülünü kazanıyor. Bu şarkı biraz midede yumruk etkisi hissettiriyor insana. Bir hikayeyi anlatıyor. Roma'da ara sıra gittiği bir kulüpte çalışan bir adam ona nasıl geldiğinin yolculuğunu anlatırken hayali bir çığ altında boğuldum ve ağlamak yerine bir kağıt kalem aldım. Merhaba, adım Mario, 7 yaşındaydım diye yazmaya başladım diyor. Birinci tekil ağızdan bir lastik bot üstündeki bir grup göçmen mahkumun dramını anlatan bir parça bu. Hepimiz iyiyiz. Stiamo tutti bene. Şimdi Itabella'da. Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente con la mamma, perché si sente male, grida, piange, non la smette più. E per 3 giorni si nasconde e non si fa vedere. Ma oggi è un giorno felice che qui è arrivato un pallone e finalmente potrò diventare forte e fare il calciatore. So già palleggiare, con i sassi è diverso, ma sono avvantaggiato perché corro forte come il vento e allora volo alla radura insieme agli altri bambini. Chi arriva ultimo in porta e sai che rottura, dico il... Arrivo primo come sempre, allora sono attaccante. Scatto, dribblo, tiro in porta ed il portiere non può farci niente. Poi da più lontano sento Mario, vieni qua, prendiamo tutto quel che abbiamo e raggiungiamo papà. Mamma, proprio adesso sto tirando un rigore, ma non c'è verso, ce ne andiamo, meglio non polemizzare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, tutto molto bene come si conviene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. C'è nulla per cui vi dobbiate preoccupare o scomodare. Ma guardate la iella, proprio a me doveva capitare. 4 giorni su sta barca, intorno ancora solo mare. Ma ti pare giusto, uno va in vacanza per la prima volta e quelli lì davanti sono capaci di sbagliare rotta. Che poi a chiamarla barca ci vuole un bel coraggio. Stare in 3 seduti in 1/2 metro di spazio e come me gli altri 200 tutti intenti a pregare. Ed io vorrei soltanto alzarmi e palleggiare. Ah, ma se soltanto sposto anche di 1 centimetro il piede, questo davanti si sveglia e inizia a dire che ha sete. Io pure ho sete, fame, sonno e mi fa male la schiena, ma non c'è mica bisogno di fare tutta sta scena. E poi c'è questo di fianco che ha chiuso gli occhi e non li apre più. È da 2 giorni che dorme, che pare non respiri. Non ho mai visto nessuno dormire così tanto. Ho chiesto a mamma e ha detto che era proprio stanco. Oh, 3 giorni fa ne hanno buttati 20 in mare. Mamma dice che volevano nuotare. Io li sentivo gridare e non sembravano allegri, ma almeno adesso ho un po' di spazio per i piedi. Sesto giorno adesso dorme pure mamma, un tipo magro qualche fila più in là grida che vede la Madonna e questa barca adesso puzza di benzina e di morte. E mamma ha detto di non farci caso e di essere forte e di fare il bravo bambino e star seduto qua. Che mamma adesso si addormenta e raggiunge papà, però piangeva e si sforzava di sorridere, forse era proprio tanto stanca pure lei. E c'è un silenzio tutto intorno che mi mette paura. Si è fatta notte, ho freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche nuotare. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene, stiamo tutti bene. Stiamo tutti bene ile Mirko e il cane Açık Radyo'daydı. Şimdi Ivana Fossetti bizimle olacak. 1992 yılında yazdığı bir parçayla. Ve bu parça insanların ihtiyaçlarını, yoksulluğu, adaletsizliği ve haysiyetini anlatmak için yazılmış. Ve kendi şöyle açıklıyor. Bu şarkı pek çok insan tarafından extra comunitario, yani komün dışı, Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşların dünyasının bir yansıması olarak ortaya çıktı. Benim için çeşitlilikle bir arada yaşamayı daha genel bir şekilde kabul etmenin zorluğunu anlatmaktı. Yoksulluk, sıkıntı, hastalık, değişebilen koşullar. Umudun yolu her zaman açıktır. Onu bulabiliriz ya da daha doğrusu bizi bulacak olan o yoldur. Dünyaya bakan kardeşim, mio fratello che guardi il mondo, şimdi Itabella'da. Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. E ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo. Il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Mio fratello che guardi il mondo radyonuzdaydı. Şimdi 1955 Napoli doğumlu Enzo Avitabile bizimle olacak. Kökleri olan Napoli geleneklerine ve karakteristik lehçeye dayanan dünya müziği ve caz füzyonu bir karışımının kahramanı diyelim. Otodidaktik olarak saksafon çalmaya başlıyor 10 yaşında. Arkasından da Napoli Konservatuarı'nda flüt bölümünden mezun oluyor. İlk albümü olan Avitabile'yi 1982 yılında yayınlıyor. Genelde sık sık halkların hikayelerini ve bu hikayelerden çıkan karışımların seslerini kendi müzik türü olarak niteliyor. Çok ırklı ritimler ve enerjiler kümesi diyor müziği için. Şimdi az sonra dinleyeceğimiz parçada da sanatçının sesine melankoli dolu bir akustik gitar ve bazen de oryantal ezgileriyle bir keman eşlik edecek. Metnin temasında da dünyanın en talihsiz sakinlerinin hakları sıklıkla ihlal edilen kırılgan çocuklar olduğundan bahsediyor. Tutte igual songe creatura, tüm yaratıklar eşittir. Şimdi Itabella'da. Sniffa una colla rinde busta, bagatata invece ancora un coppa e mura. Sta mezza cade schizzo lo gire guagliun. Nini de favela stutta rapazzata, stai le sgravugliate non ha mappuciato. Pierzi che nire nire mamma africana, sporca chi ne fama non arriva a di mano. Tutte quale sono via creature, nessuna figlia e nessuna. Tutto naterà l'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore. Tutte quale sono via creature, nessuna figlia e nessuna. Albanese è nato in mezzo mare, attenta che so mangi nei pisci cani. Comunque naso e con fucile a mano, a da fallome si è servo afghana. Un mondo stanno sempre stessa panna, ai tiana di scarico magna un anno. Giuro che lo chiamando l'itta di mezza via, morendo a pagamento per strani fantasie. Tutte quale sono che creature, nessuna è figlia e nessuna. Tutte nate dall'amore, si sa come si nasce ma si sa come si muore. Tutte quale sono che creature, nessuna è figlia e nessuna. Non sanno studi solo, sanno favola, non sanno mai deludere, non sanno mai tradire, non sanno abbandonare, non sanno far soffrire. Io guardo che credo. Igual son e creature ile Enzo Avitabile radyonuzdaydı. Şimdi sırada İtalyan şarkıcı ve söz yazarı Daniele Silvestri'nin 5. stüdyo albümü olan Uno Due'den çıkan 2002 yılında piyasaya sürülen 3. single'ı var. Bu parçada savaşa ve ekonomik çıkarların sömürülmesine karşı çıkılıyor. Ve 2001'de Cenevo'da yapılan

Hayatsa bize sadece sevginin değerli olduğunu öğretir. Onları kurtar, beni kurtar, kendini kurtar, kendimizi kurtaralım. Giovanetti'den geliyor, Salvami, şimdi Açık Radyo'da. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo, il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, e salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Eredi, cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati. Il PIL, la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizia vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni di Stato, una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio. Salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami. Giovanotti'den Salvami dinledik. Şimdi 1999'da Liga Jove Pelu, Luciana Ligabue, Lorenzo Giovanotti ve Piero Pelu'dan geliri acil durum emergency'ye bağışlanan Benim Adım Bir Daha Asla şarkısını dinleyeceğiz. Il mio nome è mai più o yıl İtalya'da en çok satan single oldu. Dağılan Yugoslavya'daki savaşlar ve özellikle Kosova Savaşı sırasında NATO'nun askeri müdahalesi parçaya hayat veriyor. Ardından 2008'deki Live Aid konserinde de akustik bir performansla dikkat çekiyor bu parça. Şarkı boyunca tekrarlanan her ne sebeple olursa olsun insan haklarının inkarı, kaba ve kötülük olaylarıyla bağlantılı bir daha asla mai più sözü insanın, tüm insanlığın iyiliği için neyin yapılması gerektiğine dair aslında bir vaat. Tarih boyunca savaşların ölüm, yıkım, kıtlık ve sefaletten başka hiçbir şey getirmediğini öğrenmemiz ve bu nedenle de genellikle ekonomik nedenlerle bağlantılı kişisel, siyasi ya da milliyetçi amaçlara dur dememiz gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Ve şöyle diyor, evet diyorum, yapabilirsin diyorum, barışı aramak tek zaferdir, her anlamda yaşamamıza,

Lehçe'sini dinleyeceğiz. Bu parçanın özelliği neredeyse tümüyle Katanya lehçesinde olması. Ve Makaroniko bölgesinden gelen cümlelerin serpiştirilmiş olması. Bu anlamda da İtalyanca dışında radyoda yayınlanması oldukça sıra dışı bir parça. Ve şöyle diyor bu parçada: ben her zaman penceredeyim, var olan bu büyük uygarlığı görüyorum. Türklerin, Yahudilerin ve Hristiyanların el sıkıştığı yeri. Ve bu şarkı bir umut uyarısıyla bitiyor. Bir zamanlar çeşitlilik bir zenginlik kaynağıydı ve bir nefret nedeni değildi. Geçmişin refahına geri dönebilmek için umut tohumları ekmek gerek. A Finestra ile Carmen Consoli şimdi Itabella'da. Sembra la finestra, è vero, gente che vorrei appasciata, gente bella, l'aria allegra, mogiosa e sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, tu ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri le capabrio sciacca granita. Duri tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore t'anzignara classe in do barrare. Sogno sembra alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata nei banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dice ciao con nata leata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si vasa, gente casa parte in genna cigna, si sciapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta missa, gente casa falle in canna sarda, ma ci fa tuare a tavola con sada cucumana. Chi c'ha vedi di dare aria una vita a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venne a travagliare con mia vecchia indispettita, avevo mi giarrero di gioio, ci dico ma scusati, chi sta la mia casa e stai o ne me pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, n'antronica se trase dentro l'ossa, peccatori rinunciati e ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario, branchiate e torre al leone. Pace coppola, balbette e mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi c'ha vedi di dare aria una vita a cui pensare, a me non poco di che fare, e da venire un poco a mare con mio vecchio dito, così anche mi parete scritto io. Mi casa a panzuttare, sogno sembra alla finestra, è vero, aranni civiltà che sta donne turche e pre cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di pittizza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, sorgevamo semi buono di che andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cangiare. Chi c'ha vedi di tagliare una vita altro a cui pensare, a me non poco di che fare, e da venire a ballare e dare quattro saute e mi scede giusto per sbagliare. Io ci dico con piacere c'è qualche danza scelta cavoli di consigliare. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Carmen Consoli, A Finestra ile radyonuzdaydı. Şimdi bir flütçü ve poli enstrümantalist olan Giuseppe Dal Bianco dinleyeceğiz. Dal Bianco nefesli çalgılara tutkun bir adam ve bu yüzden de dünyanın dört bir yanından 300'e yakın enstrümanı topluyor ve bunların çoğunu konserlerinde kullanıyor. Kendi deyimiyle müziğinde her nota, her enstrümantal tını, hatta her nefes uzak halkların ritüellerini ve yankılarını çağrıştırıyor. Dal Bianco'nun kayısı ağacından yapılmış, sesi umudun olduğu kadar acının da sesini çağrıştıran si bemol duduk yorumuyla kapatırken, bir gün hiç kimsenin güvercin ürkekliğine hapsedilmeyeceğini umut ederek, Rant Dink'i gidişinin bu 15. yılında acıyla hatırlayarak kapatıyoruz. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Hoşçakalın.